col massimo, cioè 135, ti fa praticamente, ti circonda, ti fa il cerchio nella fotografia. Il cerchio? Dovrebbe, se tu hai il paraluce dovrebbe farlo col grande angolare al limite, quando inquadri tutta la, una larga inquadratura, come mai fa un cerchio con la, col teleobiettivo? No, l'ho tolto, io ho comprato quel paraluce, quello in cose silicone, che praticamente è 3 in 1, c'è scritto, fa da 50 mm, poi lo tiene ancora, fa 85, poi lo tiene ancora fino a 135, capito? Probabilmente già, se ti fa il cerchio nero forse bisognava usare un paraluce meno lungo, oppure lo regoli tu, probabilmente riesci a vedere il bordino del paraluce a quella focale. Beh, Marco lì, io adesso vado che mi devo ancora cambiare, mi devo mettere il pigiamino, fra poco me ne vado sotto le coperte, che ieri notte sono stato sino alle 2:30 sfogliandomi le istruzioni. Così faccio io, ci perdo certe notti. E poi in questo periodo che sono un po' preoccupato sto andando a dormire alle 4, 4 e mezza, 5, alle 3, 3 e mezza, insomma, non sono rilassato, non sono tranquillo ancora. Beh, lo credo bene, e dove sei, a casa tua mangi? Eia, oppure da mia zia, oppure vieni lei e cuciniamo qualcosa, capito? E adesso sarei solo, mamma mia, è come un vuoto, capito? Va bene, va già. Buonanotte e buona giornata per domani. Ci sentiamo. Sì, già ritrovato, va, non ti preoccupare. E per la compagnia ce l'avrai. Va bene, va. Ci sentiamo, buona serata. Se Marco ripete, salutamelo di nuovo. Io al limite poi rimango un po' quello che si ascolta, se sento che c'è qualcuno, se non mi sono qui addormito. Ciao. Cappa, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, da. Ciao anche a chi sta ascoltando, buonanotte. Qua, Vintage, CQ in ascolto, Gianni e Marco ci scelte. K, Gianni è andato a mettersi in pigiama, ha detto che è in ascolto comunque. Ecco, io sono sceso giù e... va bene. Ed eccomi qua. Così come mi senti, Marco? Bene, aspetta che ti dico il segnale, prova un po'. Guarda un po'. Qua sto utilizzando un Argus 5000 DX, sempre la base, al mondo. Questo nome non mi è nuovo, sì, 910 Radio 5, sì, e sto usando Magnum S45HP, noto anche Omega Force, moderno però, insomma, attuale, diciamola. Di, oppure scegli, metti Magnum Omega Force e assomiglia tipo ai Superstar 3009, una cosa del genere, però c'ha più watt, qualche rifinitura in più. Alluminio e manopole cromate. Allora, io ho una tenna di cacca, io ho una Ringo della LEM che praticamente, chissà per quale motivo, hanno fatto stilo corto e monta a bobina. C'è la bobina misurata esternamente lunga 1,34 m, sono due giri completi. Capito? Hanno fatto questa Ringo anziché 5,50 m, l'hanno fatta, se gli ha fatto messo lo stilo, a 4,10 m. 4,10 m e accorda sulla 27. attraverso la bobina, ma a me mi pare una stronzata comunque. Sì, vabbè, una accorciata, per chi non può magari mettere qualche mettere in alto, bisogna vedere. Hanno fatto la cittadina, però c'è un'area retro che le mani possono restare, però c'è molto chiesto di andare. Questo l'ho preso, vabbè, più che altro per la macchina, anche da casa, perché aveva un audio abbastanza forte. Poi chi lo vende ha detto che praticamente, aia cacchio, porco Giuda, mi sono tirato il gomito a uno spigolo. Allora, chi lo vende dice che non aumenta solo la modulazione, ma anche la potenza. Praticamente con un watt di portante dovrebbe dare 40 watt PEP in AM. Sì, sto leggendo, infatti mi raccordo prima, come ti ho detto, che aveva notevole sviluppo, invece di avere una portante fissa, no? Il segnale normalmente in AM, perché in AM c'è una portante, viene modulata, la sua intera viene modulata e il segnale è quello. Se è note, rimane note, non è che può leggermente variare, ma di poco. Invece il tuo passava veramente da note, cioè oscillava fortissimo a seconda dell'intensità della parola, delle cose che andate lì. Sì, sì. Vedo, visto. Situazione proprio della fisica, funziona bene, ottimo. Non so se Gianni ti ha detto, cioè, e io praticamente come vecchio CV, 1970, appassionato, era con il successo mai della macchina, ma sono sempre rimasto fedele, ho studiato, io ho imparato base, prevalentemente e niente, usando sempre questa frequenza comunque come riferimento per la propagazione, perché c'è sempre tanta attività, 10 metri questi sono molto poco gli operatori, usavo sempre questo canale come frequenza di ascolto per capire se la propagazione si stava muovendo ma che interessante. E ho rifondato questo revival di frequenza vita, cioè con Walter, con altri amici programmatori che tra l'altro hanno e rispondare anche la propria cittadina, che è ancora che ha parlato con Claudio e gli altri. E stiamo mano a mano, insomma, rimettendo su e riutilizzando invece di fare le prove come facevamo in silenzio eccetera, ma invece dichiaratamente operare qua sul canale. Tutto qua, Marco, a te. Però io sono rientrato 3 anni fa, parlavo saltuariamente della macchina, però non è che decolli più di tanto la 27. Dopo un primo momento c'è molta assenza, vabbè, anche da parte mia, ma per motivi familiari. Non decolla, credo che in inverno magari si riempisse di più, per via il freddo, gente che sta a casa, sarà che in Natale tutti escono a fare spese, ma questo è un periodo un po' spento, il poco che accendo non sento nessuno di notte. Ma sai, non è che sia interesse a fare chissà che cosa, che altro è per ritrovarci tra quelli che sono i vecchi tra virgolette, soprattutto della banda cittadina, magari hanno proseguito l'attività e sono diventati allenatori, altri invece hanno continuato a non avere interesse a passare ad altre frequenze, sono rimasti qua, magari non fanno molta attività e allora niente, così, siccome tra l'altro questo uso ormai anche uso nel Stati Uniti, in altre nazioni, Germania, un po' dappertutto si stanno creando quello che io remember. E allora, niente, ho fatto quattro chiacchiere, un po' di prove più e tanto strava io, strava che grazie, scusate, ma bene per te, qua che non fa niente. Allora, insomma, si è ripreso utilizzando questo canale, solo effettivamente per questo, quattro schiacchi, da qualche separato, fare due prove, quattro schiacchi tranquilli, senza il caos, senza il problema, Io diciamo che ho questa fissa degli apparati, per quanto possibile, degli apparati come componenti standard, per esempio a parte gli apparati Connex 4000 Echo, l'FM500S, tutta roba degli anni 80, inizi 90, ho preso 3 anni fa questo apparato tutto SMD, è sempre un Magnum però piccolo. Allora, ha avuto un problema importante a detta del venditore. Sai quanto è in garanzia questo apparato? È una cosa che sembra proprio una cosa ridicola. 8 mesi, a 5 dicembre abbiamo fatto 8 mesi che l'apparecchio è fuori, non si hanno notizie. Allora, mi è venuta questa mania degli apparecchi con tecnologia classica. Ho preso un 3009 classico, scheda Ranger e PT3006, anche questo è componenti classici, però ha solo qualche piccola schedina SMD, tipo quella dello schermo, LCD, eccetera. Perché questo SMD non mi si scende, capito? A parte che si sta comportando un po' male il venditore, è uno noto di Lucca, senza far nomi, Magic Phone, e un altro utente con lo stesso apparecchio e con un problema abbastanza lo stesso rilevante, ha scoperto che l'apparecchio lui non l'ha mai mandato in garanzia alla CTE, capito, la Midland. Se l'è tenuto lui, è riuscito solo a riavere indietro, solo dietro minacce legali, ecco. Alle volte capita, fortunatamente, se gli apparati non vanno bene, è così, ma appunto la radio è sempre ma con i negozianti, non solo, guarda te, ma anche con le case produttrici, perché in questo caso stiamo parlando di un apparato che ha un costo importante, eccetera, ma ci sono delle deghe con la Icon, con la Chemus, con la Gaesu, perciò con si avviene per apparati pagati migliaia e migliaia di euro che hanno avuto problemi di garanzia e che lasciano a piedi per parecchi mesi. È sempre così, questo è un problema che fortunatamente per chi capita mai è frequente. Solo che se, come penso io adesso telefono alla CTE appena posso e chiedo se a nome mio, a nome del venditore, a nome del negozio è arrivato un apparecchio di quel tipo in riparazione. Se non mi faccio sentire e gli dico che o me lo sostituisce o me lo fa tornare indietro riparato, no? Cioè io questo apparato l'ho comprato per fare in assistenza, è una cosa allucinante, sempre che in assistenza ci sia arrivato, ripeto, perché ha fatto lo stesso scherzo con un altro utente, stesso apparecchio, stessa mesi e mesi di è stato definito questo venditore un muro di gomma da parte dell'utente. Stavo guardando, e anche questo HR, sì, lo conosco, è un bel apparato, c'ha un sacco di sacco di funzioni, stabile in frequenza, c'ha un menu mi pare da 30 voci, programmabile dai 25 ai 30 MHz, se non 31 e mezzo, però è tutto SMD, è già quello, io sono prevenuto in poche parole. Come mai è possibile? Io avevo un apparato Intec, ho bruciato i finali, dopo un mese mi era entrato l'apparato, dopo solo un mese dalla Intec, che non è neanche come marca. Vabbè, vedo, adesso mi tengo quelli questi, poi ho un Kenwood 140, che ho preso solo perché sapevo come era tenuto, sapevo che ce l'aveva, eccetera, eccetera. Bello per ricevere le altre bande, però ritengo che un Kenwood in 27, per un dual in 27, sia una mega cavolata. È sprecato, capito? Come sempre, è solo una passione di voler possedere una cosa e sono stati estremamente quasi una cosa che è grazie. Comunque sì, io l'ho già prima di prenderlo ho sempre sostenuto che era ridicolo usare un Kenwood per farsene su un canale in AM, perché alla fine noi siamo sempre su un canale, o che sia il 5, che sia il 10, che sia il 20, e lo sostengo tuttora. Ho voluto solo provarlo con apparecchio per provare com'era, vabbè, per ricevere le bande è utile, perché fino ai 40 metri ricevo abbastanza bene, magari non ricevo uno che a te arriva a 9, magari a me arriva a 7 o 6, però si riceve lo stesso. Bello per ricevere. Una cosa che mi scoccia molto è che non puoi mettere lo squelch in AM, che in 27 io uso sempre, lo metto a filo di QRM tanto per sentire il soffio di fondo, ecco lì non lo puoi fare, una cosa che mi ha seccato abbastanza. Ho capito, sì, vabbè, è un apparato, ascoltare. Se uno vuole imparare vedo che questa cosa fa girare 4.40, 4.40, 4.30, 4.30, 4.30, poi magari sono incontri, 4.40, ma per me no, sparare, puoi fare contro gli apparati o sparare veramente. Poi il 140 è molto semplice come apparato, non ha i controlli che ha per esempio il 440, il 430, è più semplificato, abbastanza largo di banda, ricezione, non ha il filtro narrow o quella roba lì. E tutti dicono, ma è la sintonia continua, è superiore ai baracchini. Il problema è che i baracchini stanno a 10 kHz di distanza, i canali, non è che abbiamo bisogno di sintonia continua. Se poi vogliamo andare su mezzo canale, c'è lo coso qua, il tune, metti 5 kHz, ecco tu che è finito lì il discorso. Vabbè, bell'apparato, insomma, poi vedo cosa farne, adesso è nell'armadio. O lo rimetto oppure me ne dico. C'è l'MC60, è la versione che sotto ha la possibilità di eliminare l'amplificazione, cosa che altri MC60 non hanno. Cioè spostando l'interruttore elimini l'amplificazione, funziona come un microfono normale, non preamplificato. Questa cosa, per esempio, prima non la sapevo. Ho capito, io... Ma io ti consiglio di sostanzialmente comunque per una struttura che c'è, gli apparati che negli anni continuano a perdere per corsi e altramente gli apparati che vanno. Comunque se non viene contrariamente a quello che normalmente si può pensare, quando viene disamplificato l'apparato da magari se invece non lo usi conservato, usarlo via, perché poi per fare la riparazione. No, ma è da poco nell'armadio. L'ho messo un paio di settimane fa perché qua dovevamo fare un po' di ripulisti e c'erano tutti i fili intrecciati, quindi era un macello. Solo per quello, anche questo era nell'armadio, ho tolto stasera per... vi ho sentito sui 20, ho tolto quel miserabile apparecchio omologato Lafayette Ares, che è piccolo piccolo piccolo, non ha manco il meter, e volevo vedere almeno i segnali. E questo, vabbè, sempre cibo da mensa. E anche questo apparato, certo, non è paragonabile a quelli professionali, gli HF. Scusa, erano soltanto le bambine che hanno fatto un po' di macello. Poi vabbè, io ho fatto sempre SWL con un ricevitorino tascabile, il VR500, sì, della Yaesu, portatile, so che è terrificante con antenna esterna, prende tutte le radio AM, quindi non è possibile ascoltare, ma solo di mattina dalla macchina con l'antenna multibanda, quella a prese calcolate è presente. Con base magnetica la mattina riuscivo a sentire radiatori, se invece le radio saturavano il ricevitore, invece col K puoi piacevolmente ascoltare anche le bande. Io purtroppo adesso ho la frazione alle alte, casa pioggia, maltempo, sto usando una cosa tra l'antenna gentilmente prestata da Pomponio, un vecchio TM1000, ma vecchio, rugginoso, è degli anni 70, però fa il suo sporco lavoro. E dovrò cambiarlo, dovrò prendere un TM1000, solo che a me roba il sedere spendere 130 euro per un TM1000 quando con 150 euro c'è un MFG che fa da 1,8 a 60 MHz, lo potrei usare anche per accordare meglio in ricezione l'antenna, tanto per ricevere meglio quelle altre bande. Adesso decido, vediamo un po', anche bisogna valutare la pecunia qua. Ah beh, certo, sicuramente, ma quello che hai detto è giustissimo. piuttosto che prendere 100 più carte, perché comunque è una, è una, è un apparato, ma ragazzi, che è ancora una cittadina, poco più, ancora ancora si fa, e non si fare di altri, Ecco, buonasera. Avanti Brecco, chi è Pomponio? Sì, buonasera a tutti e due. Ho un sovrigliante di la presa. Non è che fa trasporto, sono un suo dire. Sono Marco, Marco Scoppio. Ciao Antone. Ciao, buonasera. Anche a te buonasera, mi ascoltato. Ma Marco, come va? Sto bene, Antone. Ah, ne approfitto per dirmi, ma non è che hai qualche Galaxy Saturn, ecco, di quelli da base danneggiati, rovinati, da poter recuperare una, un potenziometro per caso, ce ne ho uno che sta in mattione. Ah, sono avuto che anche regalato, che non sai, questo fatto io. Non ho neanche uno Saturn, ecco. So che è proprio il macchiappio, la verità, quello che sei tu. Penso che si possa recalare, non è che ci voglia un Saturn Echo uguale, no, per metterla sotto un altro, no, è la verità. No, no, no, serve solamente il potenziale, perché si è rovinato il potenziale, il sensore si è rotto e allora, intanto, ma intanto già che che come componente è abbastanza valoroso dai classici flettini che vanno sostituiti, sono fatte poi dietro per sei contatti, è la parte posteriore al modello del però come componente e allora se senti che se qualcuno ha gli apparati bruciati, buttati, per componente. Va bene. Ok, ho capito. Quindi in pratica ti serve il potenziometro d'accensione, o cosa diciamo noi, ed è volume, così è. Sì, è volume interruttore. Ah, volume interruttore, ecco, non so se è il terzo, mi pare sia il terzo, la persona. Lo sai che cosa è quello? No, no, non è quello. Accessione del volume c'è anche se il lenno è uguale. Accessione del volume è quello, ci sono... ed è fatto, ed è a tre, in teoria, quello. Questo è fatto così. Ah, tre piedini normali, classico di attacco speciale. Sei stati per altri. E vabbè, questa è la cosa. Qua io ciao Marco, allora se ti vedo incontrato, ciao Alice, buonanotte a tutti, sempre qua in ascolto, canale Vita, Marco Scorsi, un po' anche di buonanotte. Dai, ciao Marco, ci sentiamo. Ma la verità non ne ho, non sapevi anche l'altro, tutto intero. Era stato bloccato al quello, non neanche lui di quelle apparecchie. Ciao Walter, saluto anche a te Marrado. Ciao Pomponi, Olezio, Doberman, come ti chiami? Ciao Marco, non so chi ci sia ancora, poi sono andato adesso, buonasera. Ciao Walter, io qua ho abbassato tutto per la cronaca. Ho messo un watt di portante molto e i modulati saranno 5. Ciao Walter, qua c'è Marco che stava entrare chiudendo, ho passando in corsa greca e Pomponi ho appena entrato. Cappa, questa è lei, l'ho sentito. Solo che a Marco si erano arrivati i video. Ho guardato, adesso aspetta. Ma tu non guardi mai, scusa. Chi è che non è uscito? Marco. Avevo manovrato, avevo ridotto il guadagno del amplificatore del microfono. E ti dicevo, è tutta la settimana che sono attaccato al telefono, perciò quando rientro a casa a fine settimana lo metto da parte e se posso evitare di prenderlo sto più tranquillo. Adesso lo guardo, ci sentiamo magari dopo ti faccio sapere. Ciao allora Alessio, grazie della disponibilità, ciao Marco, alle prossime, è ancora qua, magari su questa vista, ciao. Ciao, ci sentiamo alle prossime, papà, ciao Marco, sì, ci sentiamo alle prossime, avanti Walter. Sì, ciao Massimo, anch'io mi sposto un attimo, vi saluto e poi chiudo anch'io perché è tardi. Ciao Walter, ci sentiamo, alle prossime. Ehi Antone, ben sentito. Ascolta, cosa stai usando quella piccola stazione base che ti ha dato? Sì. Io metto la LED per lo Smith, è una bomba, si illumina tutto, sembra un candelabro, sempre quello che sempre. La modulazione però poteva essere migliore, è appena barattolata, magari se li cambi il mic va meglio. Poi mi dirai di che anno era quella lì del 90, non mi ricordo l'anno. Sì, del 90 dovrebbe essere stato lì qua, perché c'è uno schema, è tutto intero, è delle... e c'è quello di tutto, quindi dovrebbe essere il 90 la quella generazione, non è che mi ricordo come l'ho passato, comunque mi sembra il 90. Ehi Antone, io sto entrando poco perché mamma, oltre a essere un po' giù, è stampata e si è fatta un po' male la mano, capito? E sono entrati i piccocci del bicchiere quasi fino all'osso. Guarda che si è fatto male, se qualcosa non va allora Marco, sa quando la madre ha un problema di pressione, controlla bene, non fa di mangiare la pasta col sale, né stato meno la carne salata, patatine fritte, quello che è, elimina tutto, non va col sale niente, ha la pressione alta con l'altro, lo sto dicendo io. No Antonio, è tutto a posto la pressione, te lo dico io cos'è, e lei è salita su una specie di panchetto piccolino, alto 40 cm, 50, per prendere roba in alto, come sempre lei ha le gonne strette giù, quindi un po' si è sbilanciata, in più con la gonna stretta non può allargare bene la gamba per poggiare a terra, quindi è strampata, l'ha già strampata una volta però, e per fortuna però non ha toccato niente, niente che le facesse male, diciamo, è finita solo da una morbida, capito? Sì, vabbè, comunque fagli le cose, fagli le mollare, invece fagli mettere, non so, tutte quello che è, gli altri sono pigiami in casa, non costa niente, no, mettersi, non è che devi essere passato 3-7-8, ma che va a fare? Non mi sta uscendo con il giro. Ma dovete qualcosa di... cioè si cambia in casa, si mette un pigiama, una cosa, quello che è, se passa e sta bene. Eia, vabbè, Cuca deve stare attento. Antonio, guarda, c'è uno con un razzo di portante muta, ecco. Poi quando modulo sale, vabbè, questo indicatore non è tanto preciso, Antonio. Vediamo, fischiamo a quanto sale. E mi viene il fischio. Qua mi dice 7 watt, però siccome segna di più, potrebbe essere 6 watt. Naturalmente la potenza PEP qua non la misura, ci vuole un apparecchio professionale. E beh, l'unico, guarda a me invece, da così, ecco qua, adesso a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, rifà il passaggio però con portante nuota. Allora, da 9,10 scendi a 9, Santiago 9. Ma non scendi molto, eh. Invece va bene, da 1 a 5 watt lo davo di più. Va bene questo apparecchio, ho messo il LED l'altro giorno, bianco, un euro spesso. E almeno che non si fuma la farina, dura 50 anni almeno. Io ho messo il LED con la resistenza, è perfetto, c'è la luce bianca, si vede fino a fuori. Adesso mi illumina anche i pulsanti, quelli che ci sono in fianchetta. Eia, beh, sono contento che abbia funzionato quella basetta lì. Io la davo per spacciata, proprio facevano scariche, potenziometri, il microfono, il cavo del microfono non ne parliamo, era la volevo smattere a terra qua, poi ho sentito te e ho detto prova a portarla. No, è a posto adesso. E questo problema è stato, allora, quando sto passando questa fatica qua, in pratica ho infilato la scheda capita e quindi hanno toccato la scheda con la lamiera dello chassis e ha fatto un corso e ha mangiato mezzo stampato. Infatti c'è un ponte, me ne sono accorto l'altro giorno, poi ho cambiato io la lamparina, sotto la lamparina originale ci ho messo l'altra, ci ho messo un LED, da lì me ne sono accorto. E poi, vabbè, per i problemi no, non è un problema quello, è una cazzata. E poi risolvo subito, adesso come tutto mi sono risolto il problema del corso. Io mi sono dello smith, poi al limite il problema dei picchi negativi, vabbè, quello è una cazzata. Ma quello lo faccio un altro giorno. Poi la modulazione deve essere chiara. Ti sento e ti capisco benissimo. Sia in trasmissione che in ricezione. Io capito la capsula e a posto. Eia. Questo apparato mi ha fatto una cavolata però. Il beep, senza il talkback, col talkback a zero, si sente il beep nell'apparato molto forte. Cioè ti fa da monitor per il beep, ma è forte, di notte si dà fastidio. Dicevo, se sono senza la... nella tua parlante e lo colleghi allo tappato, se è a posto, ti elimina quella specie di cosa, di monitor là, che si fa di sotto. Però questo non lo manometro, mi senti? E qua si sente forte, Antonio. È come se avessi il talkback a 4. Vediamo, ola, ecco. Ecco, come volume lo sento come se avessi il talkback a 4. Ho capito. Vabbè, la fesseria è quella. Non è problema. Guarda, io questo già ho toccato solo il potenziometro dello Smith alla lancetta perché era troppo tirchio. Praticamente chi arrivava a 9 arrivava a meno di 7. Adesso ho migliorato, diciamo che segna 8,5, non di più. Non ho potuto alzare di più perché, ti spiego, avrebbe alzato i segnali forti, li avrebbe alzati troppo, praticamente arrivavano tutti in fondo scala, quindi ho dovuto trovare una via di mezzo, un compromesso, dai. Quindi 9 grosso modo preciso, segnali alti un pochino generosi, invece segnali bassi sono sempre bassi, capito? C'è niente da fare. L'unico smitter decente è quello del Kingwood. Lo so, già la cosa che smitter è quello che preoccupare. Ho subito un 430, 310 euro, forse se non... cioè, ho trovato il sito di quell'aggeggio che volevo io e infatti che devo telefonare, si chiama Sushi, mi sembra ancora la città, che il sito c'è, che con l'apparecchio bisogna telefonare di là. Adesso vediamo un pochino, chiedo qua al socio di Simona se riesco a farlo arrivare, se no se la via è pure meglio al limite di quel che vuole il 430 a 310 euro. E dove? Dove l'hai visto? 430 a quanto? 310? Sì, 310, sì. La seconda mano, garantito l'anno, di garanzia. E magari da Magic Phone. È proprio lì era. Appunto, Antone, era, perché non ne ha più. Allora, quando gli entrano quegli apparecchi, possono durare da un giorno a 5 giorni, poi si riprendono. Io attualmente ho trovato apparecchi solo di alto livello, tipo un DS2000 o cos'era. Tutta roba su di prezzo, capito? Ogni tanto li portano 140, 430, 440, 450, oppure roba 757, FT, hanno venduto un FT 817, non ND però, e non ND, la versione 817 basta. Tipo 400 euro, 400, se ti fa HF, però con 5 watt soli, ma tu te ne freghi, tanto puoi mettere un linearetto, l'accento e risolto il problema. Sì, già lo so, ma adesso, come ho trovato il sito di quell'aggeggio americano, cioè cinese, la versione americana, adesso devo chiedere a socio della mia 25 se me lo può far arrivare, siccome ci sono, c'è l'indirizzo, c'è tutto, adesso ho visto, quindi c'è anche la città di tua dove zinarlo. Adesso vediamo cosa ne capiamo fuori, se si può ordinare lo dico, se non se la piglia in culo me lo dico un chimico, quello che è, primo che trovo se la piglia in culo da fuori, non la sassa, da fuori, perché la sala non mi interessa, non voglio sapere, da fuori, nuovo, cioè nuovo, secondo me è garantito, aspetta, 400 euro, ma almeno c'è un anno di garanzia, non è stato toccato né niente, non voglio vendere io la fabbrica, e basta, poi se è da modificare, lo faccio modificare io, da loro. Eia. Comunque se trovi un 430 in ottimo, perfetto stato, vai di lusso, 430 va bene, non ha il problema del 440, quanto ho capito io, quello del VCO, non dovrebbe, poi non sono sicuro, sì, è completo, è molto più completo del 140 e anche del C80 mi pare. Vabbè, se vuoi già ce ne sono da parecchi, c'è... Poi dice Mario, dice che in pratica la pericola solo dice che il teatro non funziona più, da controllare, da fatto sistemare, capito? E non riceve, quindi. In pratica più o meno ho capito lo stanno vendendo, adesso non lo so, la verità. Se ho capito male io pure il corso. E quindi la verità non voglio avere problemi con. Se non mi interessa comprarlo. Quindi ora parecchio. Me lo compro, è mio e sono sicuro che mi dura un anno per dire che se è toccato, non voglio vedere l'apparecchio. A meno che non faccio modificare direttamente da tagliato. Da fuori, non da sassari, la verità. Quindi non voglio così. c'è il capello così, non lo so, forse ho sbagliato, non mi sembra. Poi ha detto che sia bello, anche se per dire detto l'uomo quello che è, da fuori, con la mia garanzia. La garanzia me l'ho fatta per casa di fretta, che ho chiuso il jet, sta via in culo. Sto spendendo soldi, non voglio averli inculati, diciamo quella. Io volevo, mi piace così la storia. Dopo che mi sono sbagliato, non lo so, però io la penso così. Beh, sì. Allora, se non hai la possibilità di avere quello là, e poi telefonare un casino, perché quelli sono cinesi, noi italiani, bisogna parlare inglese, però è un casino parlare inglese. Posso capire i termini leggendo, ma parlare un'altra cosa. Sì, lì hai una non garanzia, vabbè, il venditore è quello che è. Ti ricordo che col 5 dicembre sono passati 8 mesi che il mio apparato è in assistenza, capito? L'Albrecht 5008. Voglio vedere, io non li telefono, prima voglio indagare se la CTE ha il mio apparato in riparazione, o Midland che sia. Se non ce l'ha in riparazione, quindi lui ha detto balle, ce l'ha lui. Gli dico se devo ricorrere a mezzi legali per riaverlo indietro, quindi o me lo sostituisce o me lo ripara, in fretta pure. Lo deve sostituire, non riparare. Che discorso cambia, tu gli hai portato a fare il giorno. Qui c'è, io ho firmato la ricevuta, qui c'è la coppia e mando l'avvocato. L'avvocato poi ci pensa al resto, non ti preoccupare per quello. Le cose stanno così, Marco. Quindi se tu hai pagato l'apparecchio, è arrivato dopo una settimana, dopo un mese, quello che è, c'hai il foglio, dopo te l'avevo fatto, poi l'avvocato gli porta il foglio stesso e arrancia, tu lo vuoi nuovo, non lo vuoi riparato, hai capito? No Antonio, non funziona così, quell'apparecchio è andato bene un anno, poi si è presentato il problema, lui non è tenuto a sostituirtelo. Dopo un anno che ce l'avevi, però o te lo ripara lui o te lo fa riparare, però deve tornare l'apparecchio. È una cosa incredibile, 8 mesi, non esiste Antonè. Mi l'ho detto anche prima, io quando ho bruciato il finale di Intec, la Intec dopo un mese l'apparecchio è tornato, ma non 8 mesi, ma stiamo scherzando. Poi diventerà 9, 10, 11, 12. Ah, è andato quasi un anno, sì, la cosa è diversa. Io pensavo di arrivare un mese dopo che aveva comprato, il discorso è quello lì. Quindi, vabbè, comunque sia, te lo devi cambiare. Boh, vediamo, comunque questi SMD non mi si va, la mia Antonio, non c'è niente da fare. Qua il 3009 è componenti classici, questo è componenti classici, c'ha qualche piccola schedina SMD tipo il display per forza, e se potessi farlo prenderei anche un altro per il futuro, un altro apparato sempre con componenti classici, che sarebbe il Super Joe PX 2000, che è come il 3009 però il frequenzimetro. Tu te lo ricordi il vecchio Samurai Excalibur, no? Con le frequenzimetro cifre verdi, beh, lo vendono tuttora, è omologato, spostando un ponticello a mano, togli questo spirottino, lo sposti di un ponticello e ti fa 240 canali, quello è tutto componenti classici, e non sarebbe male. Così ne ho tre, quando si spasciano in futuro si ripara, e nel frattempo ne uso altri due. E quanto viene quella parecchio? Allora, il Super Jupix 2000 alias Excalibur Samurai costa da una da Magic Phone 245 e viene venuto come omologato. Penso che costi un po' di più perché ha l'omologazione, quindi ha 40 canali, però se vuoi sposti il ponticello diventa 240 canali. Ma va, per 249 è fatta, non va a fare cosa, tutti i figli. a cazzare, cazzato di quelli samurai in giro, a cazzare, vale. Ma a cazzarli si trovano, che preoccupare, questo viaggio è 120 euro. Lo so Antonè, però roba usata non la voglio più. Non, come dici tu anche che vorrebbe roba nuova, per esempio il Codex 4000 Echo è stato già riparato bene da Vittorio, però poi è comparso un altro problema che prima era latente, adesso glielo devo riportare, però quella roba è un po' di tanti anni, sempre qualche problemino viene fuori, quando è nuovo hai buona garanzia e poi comunque si può sempre riparare. Vabbè, la cosa che io con te, però il discorso è quello, sai quando il risolvo di quegli appareti in giro è pieno stato, non è che sia vuoto, ci sono samurai, ci sono Saturneco, è pieno, il discorso è magari a volte capita che ti buttano per dire, ma se tu metti l'articolo sul giornale, che su un'occasione, su internet, cercando apparecchi antichi, quello che è, di quella marca lì, sai quanto la pagano? A poco prezzo, ma parecchi, perché la gente che li ha a casa sua non sa cosa ha fatto, hai capito? Il discorso è quello. Non è che deve aspettare a fatto nuovo, è pieno di samurai, è pieno di samurai. Il discorso è che la gente che ha dentro casa non li usa più, compresa anche le antenne per dire la cliente 2, le super retibus, magari ce l'ha conservato, devi trovare la persona giusta che magari ha preso l'antenna che ha dentro casa, lampada per dire che non si fa un cazzo, oppure i parenti. Dice non abbia fatto questa terra di questo palazzino, qui è lo là, per dire. Il discorso è quello lì. È pieno, sai, di questa cosa. Il problema è trovare la persona giusta. Cioè le persone giuste non la sono. In modo che se lo possono dare o vendere quello che è, anche. Tu figurati che c'è, ti devi guardare abuso, c'è la mano, la nuova con una di quelle antenne tipo Grand Play. 5 anni già di buttata, eppure è lì, bisogna trovare il capocondomino, è stato detto di guardi che vuole saccarne cosa è stato il pallone, ma di quell'antenna la dice di saccarla, e quando dice va e staccatela, capito, il discorso è quello, siccome le antenne lì sono buttate, compresate il cavo, quindi al limite si poteva trovare anche il pallone per dire beh, il pallone di chi era? E quello lì c'aveva la passione, magari ce l'ha conservata, non l'ha fatto, se fa un cazzo pietra. Però Antonè conta che il Superstar 3009 nuovo costava 189 e il frequenzimetro su quel tipo di apparati costa sempre 50 euro in più. La differenza è sempre quella, senza frequenzimetro, tot, con frequenzimetro una cinquantina di euro in più, quindi il prezzo è nella media, è normale, capito? Poi capisco che con 199 euro ti prendi una HR 5005 per dire, alias MAS DF 5000 eccetera eccetera, però quello è tutto in SMD, quell'HR 5005. E quindi non mi ci scende già quello, poi c'è menu, sotto menu, e non mi piace così. Preferisco roba vecchio stampo, capito? Tutto senza menu, c'è il tune, il clarifier, eccetera, eccetera. Poi qualcuno magari lo vende a qualcosa in meno, 230, 220, però io a quel prezzo l'ho visto. Ti volevo ricordare, ti ricordi l'Excalibur Samurai? Aveva un difetto che avevano vari modelli, vari pezzi di quel tipo. Il frequenzimetro cominciava dopo un bel po' di tempo, dopo un anno, due anni, non so, cominciava a impazzire, a dare i numeri a caso e poi quando si guastava il tutto segnava 000, tutto zero, te lo ricordi? Guarda che con il freno lo fa anche uno del Saturneco, io lo sai. Il problema è la scheda del frequenzimetro, quella è il problema. Perché scalda un bel, hai capito? Quel difetto è la scheda del frequenzimetro, non pensare che sia il display. E la scheda del frequenzimetro lo fa anche il Saturneco, quella è quel difetto, non ti preoccupare. Poi comincia a fare din din din. notte questo cazzo di sibilo, bim bim bim bim bim, capito? Quello è il frequenzimetro del samurai, del Galaxy Pluto, del Saturn Echo, tutti quegli apparecchi lì hanno quel difetto là, perché il frequenzimetro è primo che, cioè, la prima chela che gli hanno messo è quella che è, e quindi scalda parecchio, diventa bollente invece. Però Antonio, molti frequentimetri diventano bollenti, tipo il Superstar 3009 EFT, quello bello, però non si guastano. Adesso questo qua, questo Jopix 2000, è il rifacimento dell'Excalibur Samurai. Io spero che abbiano rivisto, migliorato e aggiornato la scheda del frequentimetro, non vorrei che facesse lo stesso difetto. Allora montano mi sembra 78.08 senza avere dissipatore, quindi automaticamente quando scalda un bene non riesce a dissipare, in pratica va in tilt e comincia a salire il display. Prima hai capito? Perché è successo sempre così. Io l'ho avuto di quegli apparecchi, parecchi l'ho avuto, quindi lo sto facendo per quello. Eia. Comunque vedo che ogni tanto ricicla una roba di 20 anni fa. Quello poteva essere del 90, 92 può essere. L'avevo preso da Sandro Satellite usato però manomesso, perché usciva un po' cupo in AM, gli avevano fatto qualcosa. Dicevo, da 90, dopo 20 anni l'hanno riciclato, rinominato Jopix 2000 e venduto. Vabbè, conta che il frequentimetro solo è tre cifre decimali, non è né 4 né 5, quindi pure tu, però meglio che niente, Antonio, a un certo punto. Se devi metterti sullo zero finale, almeno riesci a metterti. Ah beh, quello sì, già lo so. Ma già l'ho visto in quel cartone che hai detto tu, come sono quegli apparecchi che vendono. Sono nuovi, che hanno le cifre di celesti, non verdi, ma erano verdi o rosse quello che era, ma adesso le due sono tutti celesti, quindi la verità da un lato sembra che non ci sia un cambiamento. Sono migliori, la verità, sì, hanno migliorato parecchio, sono accorti di difetti, sono migliorati, per dire. Ho notato che il Superstar 3009 della Jopix, quello che ho io, si chiama Jopix SS 3009, SS sta per Superstar. La scheda, appunto con componenti classici, è marchiata Ranger Communication. No, capito. Vabbè, io invece ho il pizzo del 3009 mio, è il mio originale, quindi cambia poco. Anche di solito ce n'è un altro di 3009 originale, via telefono a Andrea, me lo faccio mandare, così lo riparo, è proprio originale 2009, ne avevamo due in pratica, io e lui, Andrea Maricomio, mi ha lasciato un fulmine e non è riuscito a ripararlo quei periodi. Adesso mi ricordo cosa avevo cambiato, siamo integrati, quello che non lo so, la verità. Comunque basta buscare al limite un coso, 4.5, sono precisi. Sono fatto il sole la mattina, di uno metto il cielo all'altro e io metto su questa 3.009 uguale. Precisi identico. Come ho fatto il visto è mio. Il mio è diventato omologato. Pulcinoso. Cosa gli ha fatto? La targhetta, come ha fatto una persona che ha costruito la targhetta, quella che ci sono prima, nel fare alluminio per la lavorazione, l'ha rivettata o cosa, sembrava vera. No, la targhetta che dava a Giorgio Grassi era in carta, non è che fosse alluminio. C'era scritto in carta dietro e poi c'era la mascherina con scritto capito, lo tornato e basta, 34S. Il mio è stato così, ma ti parlo di 10-15 anni, una cosa del genere, quindi figurati tu. Il mio omologato, sta parecchio. Fuori e dentro, cioè, non dentro. Fuori sta la parte all'altra. Dietro la faccia a cadere. Mi pare. Sì, mi pare che me l'avevi fatto vedere. No, un'altra persona aveva fatto negli anni 80 la targhetta come era una volta, no, di alluminio, poi ci aveva messo due ribattini, battuti, no? E gli ho detto, tu sei pazzo. Ah, io invece ho visto un barattino, in realtà, da un MCGB, ha smontato il barattino, se l'ha messo dentro la macchina, smontato, tu figura, tu ci fai metti così fuori, gli ha fatto la macchina lui e gli ha messo una rotazione addirittura. Però non mi ricordo chi era questo tipo di verità, perché io ti parlo negli anni 84-85, la cosa del genere. Ha svuotato i barattini in pieno e ha messo, e ha infilato nel cruscotto della macchina, ha infilato. Ha fatto tutto lui, l'ha fatto. Poi un po', la verità non so che fine abbia fatto, è lui che ha trovato la macchina con quel barattino. Però, siccome quelli delle scorposte non sono scemi, immagino che si accorgano di qualcosa, magari, di qualche regolarità. Non so, si dice che siamo preparati, almeno i primi erano preparati, adesso immagino i figli, che d'altronde non hanno giocato di no come apparecchiature. No, non è quello. Adesso ormai ci sono le cose, posso dire. Anche loro vanno nei negozi per pigliare per avere un po' che fare, ci sono i vendita, quello che è, quindi si basano su quello, capito? Quello è monodato, l'altro non è normale, quindi se la colgono subito, no? Sanno che tu state premere, non sono tonti, cioè non è tonto, perché la metà non è tonto, non è un CB, quindi vabbè, adesso non è il momento di cercare il CB la verità, perché no, non è più come una volta, quindi no. Però se dovesse succedere come una volta, adesso gli anni che ero io, pilota in cura, te lo dico io, ha finito di burlare con barattino, anche con l'antenna. La mano sparisce, sparisce con i liari, sparisce con un sacco di cose. Quindi adesso, vabbè, non è il momento opportuno, la verità, perché non sta più cercando nessuno, però perché sono diminuiti anche i CB. Però se fosse stato come una volta, che siano 50 CB e anche di più, a Sassari, con una gente che già soffriamo, sono tranquillo che li attornano. Il costo è quello, purtroppo siamo in 4, quindi cosa vengono a cercare a noi? Non c'è più la richiesta di una volta, per dire. A parte che per chiamare una persona genere, cioè persona genere devi pagarli adesso. E ti costa 500 euro, se c'è 500 euro ti fai fare il controllo a uno. Penso non ti convenga, no? Perché 500 euro? Perché tu lo devi pagare il controllo che fanno loro agli altri. Sì, si paga il controllo adesso, se no non ti avvengono loro, già lo sai. Se tu sei sicuro che lui è in coso, paghi 500 euro, poi magari, non so se ti ritorna, quello non te lo so dire, comunque sia, non è come una volta che fai l'esposo, fanno e controllano, vedono il tempo, capito? Ma se lo paghi, tu devi essere proprio sicuro, paghi, allora gli fanno una spesa, se non ti aspettano, solo niente da fare, ma con intervento adesso. Beh, però non va bene. Perché allora se c'è qualcuno che fa cose che non deve fare, la gente può spendere, non chiama, vabbè, dovrebbe essere, vabbè, lasciamo stare, da. Cioè era meglio come una volta, perché controllavano chi disturbava veramente, chi disturbava troppo, eccetera, ma questo di pagare mi sembra una boiata. La gente guarda, non va più nessuno, caro mio. Perché uno fa il controllo a gratis, se non è sotto, magari se tu dici il carico, guarda, quello lì è antipatico, mi fa disturbare la televisione, bene a casa tu cosa fa? Ti controlla, poi magari non è vero, e spende i soldi. Hai capito? Chi lo paga lui? Che cosa è quello lì? Anche invece adesso si paga, se fa il posto paghi. E se non è vero sono cazzi suoi, non cazzi tuoi, sono cazzi suoi. vabbè, vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo, no? Ce ne andiamo 45 metri, eccetera. Cosa fare? Fate 45 metri, quanti ce ne sono? Figurati, o io, è pieno. Questo accordatore sta facendo egregiamente il suo lavoro, mi sta permettendo di modulare. Adesso stavo preventivando un accordatore nuovo, così questo poi te lo restituisco. E ripeto, spendere 130 euro per un HP1000 che serve solo in 27. Volevo quasi spendere qualcosa in più, prendere l'MFG, ma questo è l'amico mio, mi aspetta un attimo. Via, d'accordo. Andiamo al circo, ci facciamo la birra, io. E beh, chiama, facciate risposta, cosa devo fare? Devo chiamare lui, io non ho credito. Chiama, se vuoi uscire, se femmina va bene, se maschio no. No, maschio è per fare un giro. Quello ti volevo dire, adesso ho quasi 140 euro, quello mi costa 150 più 21 di spedizione, o meglio 15 di spedizione più 6 di bonifico, perché questo del negozio, siccome è diverso dagli altri, lui no, non accetta carta di credito, solo bonifico. Quindi ti tocca 15 euro di spedizione, che sono già tanti, più 6 euro costa il bonifico, 21 euro in spese per avere un apparecchio da 150. Vabbè, valuteremo tutto, va. Adesso Antonio, chiudo, faccio quelle X, quelle T, chiamo, richiamo questo, così facciamo un giro, va. Antonio, mi ha fatto piacere sentirti dopo vari giorni. Sentiamo alle prossime. Io c'è proprio già lo sai, quando vuoi, c'è a giovinocchio, chiama, non preoccuparti, ok, così, boh, io faccio un giro, mi, andiamo da Nicco, devo una cosa e poi li mettere in casa, se vuoi uscire, a fare la passeggiatina, mi chiama a telefono, già sono a casa, non preoccuparti. E via. Adesso vediamo come si risolve, perché stiamo andando all'ospedale mattina e sera, allora vi visito, perché poi mamma l'hanno operata al nervo, perché il vetro ha toccato un nervo, quindi l'hanno operata e ancora è lì. Ho capito, vabbè, come vuoi tu, quando vuoi io sono qua, chiama, già sono a casa, se non siete palattino, chiama, già andiamo a vedere una cosa, non preoccuparti. Già sto lavorando, sono a posto, non è più come prima adesso, sono vedo le cose, capito, quindi, ehi, andiamo, ci vediamo una cosa, non costa niente. Ehi Antone, meno male che almeno tu stai lavorando, da, almeno si riesce anche a togliersi qualche sfizio, se no, mamma mia, sì. È deprimente la vita senza soldi. Va bene Antonio, ci sentiamo alle prossime, buonanotte. Io ho fatto buonanotte, ciao, alle prossime, ciao.